sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, dai. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Crucio, ieri pausa pranzo a Macerata, evito il ristorante di Salvini, lo chef invitato da Crozza perché è vegano, no? Ristorante vegano. Quindi andiamo su un altro ristorante, mi siedo, cosa avete per primo? Allora abbiamo fusilli al pomodoro bio, zuppa di amaranto e riso wild con porro e spinaci. I secondi neanche te li sto a dire perché erano tofu e cazzate varie. Ci stanno invadendo. Ci stanno invadendo. Giuseppe, sono in ufficio circondato da donne che mi chiedono la mimosa, nel 2016 ancora la mimosa, brava da matti, è una cosa incredibile. Io spero, David, spero. Buon 8 marzo a tutte le donne. No, ecco, fermo lì, spero. No, l'ho detto prima apposta perché sapevo, so che dirai delle castronate, quindi allora, buon 8 marzo a tutte le donne in ascolto. Spero che tu non abbia fatto nessun dono di mimosa, certo. Cioè, hai dato a Natania le mimose? Ho regalato a Natania le mimose, certamente. Mamma mia, ragazzi. Tradizione, ma c'è qualcosa, come dire, di diverso rispetto alla cosa tradizionale. Sì, no, guarda. Al politicamente corretto, sì, cioè, pensavo di regalare appunto un vibratore, poi ho detto no, questo lo farà già Cruciani e quindi regalo una mimosa. Assolutamente. Poi ci saranno ascoltatori che chiameranno, che diranno che hanno regalato delle merde secche, del guano, che chiameranno dei miserabili, ma basta non dare nulla, basta che non dare hanno, nulla che non si deve, come cioè, ha detto quello lì, regalare. Io ho regalato una banalissima bellissima mimosa alle ore 9:05 di questa mattina. 9:05, esatto, comprata 9:05. Da un simpaticissimo cingalese che sotto casa vendeva mimose al semaforo in nero naturalmente, rigorosamente in nero. Il cosiddetto mercato laterale, hai alimentato quello il traffico, che si chiama il mercato laterale, hai alimentato il traffico nero delle mimose, diciamolo subito. Simpaticissimo, allora, ragazzi, cingalese, io non ne voglio parlare, non voglio che si pronunci parola favella che riguardi la festa della donna, mi raccomando, se qualcuno lo fa, a meno che non ci sia qualcosa di clamoroso da raccontare, chiudo il telefono immediatamente. Allora, non c'è festa più assurda, assurda della festa delle donne. Cioè, una donna normale, una donna consapevole, una donna come l'uomo, esattamente come l'uomo, dovrebbe dire a voce alta: non siamo una specie protetta, siamo uguali a voi, identici a voi, andate a fare in culo con questa festa. Cancellate questa cosa inaudita e ridicola. Soprattutto nata negli Stati Uniti, una non festa lo so, nata non negli Stati Uniti, non nella Russia comunista. Non nata mi interessa. Negli Stati Ti Uniti. Voglio far ascoltare qualcosa perché, ragazzi, qui c'è stato oggi un sequestro di Parlamento. Hanno sequestrato il Parlamento italiano. Io mi attaccheranno ancora una volta, ce l'hai col presidente della Camera, verrò querelato, diffamato, mi tireranno le pietre, mi porteranno in tribunale, non mi interessa. La signora Boldrini ha sequestrato la Camera. Sai quella cosa della bandiera mezz'asta, il segno di lutto per il femminicidio? Una delle tante boiate del presidente della Camera. Vabbè, ma insomma, non mi sembra grave, non mi sembra, no, mi sembra simbolica. Ma l'ho fatto per davvero, l'ho fatto per davvero. Cioè, nel giorno della festa, si chiamerebbe festa, lo dice la parola stessa. Cosa ha fatto? L'ha trasformato in una sorta di funerale con le bandiere a mezz'asta. Ma ti pare una cosa normale? Un giorno di consapevolezza, dai. un giorno di che? Di, sì, consapevolezza. Ma che c'è, sì, bisogno, esatto, ce lo dice qualcun'altro di, sì, essere, sì, consapevoli? Sì, giorno di consapevolezza. Cioè c'è bisogno che di qualcun Sapevo altro che ti avrebbe mandato ai matti, no, vado questa ai matti, espressione, vado il giorno della consapevolezza. Dai, che dai, ne pensa di questo Auriemma, ad esempio, il grande Auriemma della ma festa che della donna? Che c'entra Auriemma? Vabbè, oggi stavo andando a fare una delle mie tante commissioni all'Agenzia delle Entrate e facendo, sì, la via Aurelia trovo un negozio che vende bufale. L'ho anche fotografato, c'è scritto bufale Auriemma. Ma no, l'ho, dai, fotografato, ti assicuro. Ma è il suo negozio, non credo. Le bufale di Auriemma c'era. Ma è il suo negozio o no? Mondrini e la bandiera passata. No, non so parlare male di Auriemma. Ma ti assicuro, sulla via Aurelia c'era bufale Auriemma. Bufale, dai, c'era ma scritto. Ma che ti ha fatto Auriemma? No, nulla. Bufale Auriemma c'era scritto. È colpa mia? Ho deciso di abbassare la bandiera di Montecitorio in segno di lutto. Di lutto per tutte le donne uccise per mano di chi che avrebbe dovuto amarle. Le vittime di femminicidio in Italia negli ultimi 10 anni sono oltre 1700. Non se ne può più, ragazzi, non se ne può più. Poi c'è stato alla Camera un interessantissimo convegno oggi, ma ti rendi conto i soldi che spendiamo? Il denaro che spendiamo, denaro pubblico per organizzare il convegno, sicuramente ma ci sarà stata. Ma l'ho invitato a quello lì, ma non sono andato. Beh, meno male che se non sei andato, meno male, meno male che non ti sei, ti sei, ti sei salvato in corner. Ti sei salvato in corner. Com'è, sì, che era il titolo? Ce l'avevo qua. 8 marzo, sua, sì, 8 marzo. Parità e media, insomma, sui nomi, su questa solita cosa dei nomi, ragazzi, io non ne posso più. La Boldrini ha detto: senti, i titoli dei giornali sbagliati, ma perché? Io a volte ho letto titoli di giornali che mi hanno un po' confusa, nel senso che ho letto titoli in cui c'era scritto: il ministro va a Bruxelles con il marito e i figli. Il ministro va a Bruxelles con il marito e i figli e noi delle due una, cioè o abbiamo già approvato le nozze gay e questo credo che non sia alla portata nei prossimi anni, oppure c'è un problema. Mazza battutona, cerca anche di fare la spiritosa il ministro, sì, perché si chiama il ministro, perché è più facile dire il ministro va col marito a Bruxelles piuttosto che la ministra va col marito a Bruxelles, e chi lo dice non è un criminale, non è una discriminazione, ma questa cosa l'ho ripetuta talmente tante di quelle volte che è anche inutile tornarci sopra. Poi sentite questa cosa, ci vogliono più donne nei talk show. Più donne, cioè ha deciso il presidente della Camera che ci vogliono più donne. Questo. Ma ragazzi, io non ne posso più. Ma perché non si fa un impeachment o qualcosa del genere? Un impeachment. Ma sì, un impeachment. La sua sfortuna, ogni volta che parla, però le sbaglia tutte, capito? Però insomma. E così come nei talk show, a volte si vede che sono molti uomini, per carità, dicono cose interessanti, però magari vorrei sentire anche la voce delle donne. Anche questo forse quando si fa. Vorrei sentire la voce delle donne. Adesso non interesserà a nessuno, ma segnalo che domenica scorsa fuori onda c'erano solo donne ospiti, solo. No, ma hai fatto bene a ricordarlo. No, non frega niente a nessuno, no, eh. No. Però no, c'era no, la mia amica Anselma Dell'Olio, la moglie di Giovanna Ferrara. C'era ma adesso la, non c'è bisogno che la Beatrice so. Lorenzin, vabbè, donna. No, solo donne, dice, non vede per carità. Allora ragazzi, l'omicidio di Luca Varani, per carità, bisogna sempre avere grande rispetto per i genitori, naturalmente, sia delle vittime che degli omicidi. Qualcuno propone la pena di morte addirittura, oggi ho letto da qualche parte, la signora, sì, Rita Dalla Chiesa ha detto per queste cose ci vorrebbe la pena di morte. Sono usciti dei particolari francamente orribili su questa vicenda, abbiamo dormito col cadavere di Luca, sgozzato per non farlo urlare, adescato con 120 euro e la roba, colpo di grazia con una lama conficcata nel petto, nel cuore, sì, sempre. Delle cose terribili. C'è da dire una cosa forse sulla presenza del padre, ecco, del padre di Manuel Foffo, cioè uno dei due assassini a Porta, signor Walter Foffo. Sentitelo, signor Walter Foffo. No, io non mi sono mai accorto di nulla, in quanto Manuel è sempre stato un ragazzo modello, un ragazzo contro la violenza, un autodidatta, un ragazzo molto buono, forse eccessivamente buono e anche riservato, un ragazzo che ha un quoziente intellettivo superiore alla norma. Ma adesso questo, per carità, non ho mai sentito un padre dire per mio carità. Figlio era un pazzo scatenato che girava con i coltelli quoziente per la casa. Quoziente intellettivo, questo. A me mi viene da, siccome in un'altra intervista il signor Foffo ha detto spero che sia stata la cocaina altrimenti mio figlio è un mostro. Sì, il problema è che probabilmente la cocaina ha aiutato, anche se non è la prima causa, altrimenti a Milano, dove c'è il più alto consumo di cocaina, avremmo praticamente delle stragi ogni giorno. Cioè, se la colpa fosse solo della cocaina, che può aver aiutato, beh, amico mio, avremmo una strage continua. Sì. Cioè, è una città dove il consumo di cocaina è altissimo, come si evince da numerose ricerche, avremmo una strage continua, cioè ogni sera, ogni giorno. Eppure non è così, no? Però senti quest'altra cosa che ha detto il signor Foffo. Va in cura da uno psicologo per l'alcol, però è un ragazzo modello. E il fatto che lui fosse curato per abuso di alcol, eccetera, lei non lo sapeva? Sì, lo sapevo, l'avevo fatto rivolgere a un psicologo per aiutarlo. E lo psicologo che cosa lei diceva? Non ha mai parlato con me il psicologo in quanto per segreto professionale. No, certo, ma non l'ha detto nemmeno stia attento, insomma, beh, una situazione allarmante, no? No, nel modo più assoluto. No, più assoluto. Guardi, un ragazzo allora, modello. Io capisco che un padre deve dire un ragazzo modello, però ecco, l'unica cosa che si può dire è che non conosce a fondo la vita del figlio. Ma come tanti padri, cioè, anche i miei non sapevano una mazza di quello che facevo, ne combinavo di tutti i colori, ma è normale che no, sia i così. I miei sapevano tutto invece. Poi tu vuoi fare una polemica, credo, sulla storia di Porta a Porta, però ci torniamo, fermo. Luciani, l'altra sera facevo l'amore col mio ragazzo mentre ascoltavo La Zanzara. Beh, quando hai mandato il traffico mi si è abbassata tutta la libidine. La Zanzara. Allora, abbiamo qui alla Zanzara in diretta il legale della famiglia Foffo, si chiama Michele Andreano. Buonasera, buonasera avvocato. Buonasera a lei. Come sta? E a tutti. Come vuole che sto. Ah, lei. Lei starà bene, immagino. Beh, lei spero. Personalmente bene. Ma lei era Porta a Porta ieri, no? Era lei? Sì. Sì. Senta, lei è anche il legale della famiglia Butcher, cioè il. Lo sapevo che arrivava lì. No, sì. Che arrivava lì. Beh, è il suo mestiere, però. Mica l'ho detto che è un criminale, è avvocato. No, ci mancherebbe. Lei è anche l'avvocato della famiglia Becher. Si può dire che è specializzato in quelli che potremmo chiamare, per carità, si è detto senza, mostri o no? Ma direi di no. Diciamo che io faccio il penale, sì. Per cui capitano queste cose. Che adesso siano capitati due episodi così gravi, così. Sì. All'attenzione nazionale è una pura coincidenza. Ma nel senso che l'hanno chiamato perché difendeva Becero o perché conosceva la famiglia? Io conoscevo la signora Pavasi. Dice per quanto riguarda Foffo, perdono, sì. sono il legale delle società della famiglia Foffo da anni. Ah, ok. Quindi conosceva il figlio anche da tanti anni. Conosco anche Manuel, sì, certo. Appunto. Ecco, ma era amico di Manuel forse anche, da quanto ho capito ieri a Porta a Porta. Amico no, diciamo che lo conosco, cioè, l'amicizia è una cosa. No, amico, diversa. Però c'era un'intimità, insomma, vi conoscevate da tanti anni. No intimità nel senso di. Intimità non direi, diciamo che ho avuto modo di vederlo più di una volta, sia in ufficio, sia anche al ristorante di famiglia. Ma lui era, un consumatore abituale di cocaina? Ma lui dice di sì, in alcuni periodi, soprattutto quando è andato ad Ibiza. Ne ha assunta parecchia. Cioè, per cui era un consumatore abituale di cocaina? Possiamo dire di sì. Cioè, quello che si dice un cocainomane. Senza nessuna accezione negativa. Cioè, No. Lei pensa che la cocaina sia una. Per carità, poi siamo ancora all'inizio, e questo dobbiamo sempre precisarlo. Lei pensa che la cocaina abbia avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda? Beh, io penso proprio di sì. Ma è un pensiero che non ha nessun riscontro oggettivo. Cioè, senza la cocaina non avrebbero ucciso? Secondo me no. Secondo me no. Però lei dicendo così, io prima ho detto: se fosse solo la cocaina, sarebbe pieno ci sarebbero di stragi in tutta Italia. Cioè, come lei sa, no? La cocaina è molto consumata in Italia. Sì, è molto consumata, però sembrerebbe che in questo caso specifico ne hanno acquistato 1.500-1.800 euro. Sì. In due giorni è una quantità rilevante, significativa, unita con i superalcolici, è una miscela, secondo me, esplosiva. Esplosiva. Senta, lei ha già detto che chiederà la perizia psichiatrica. No, io chiederò prima la perizia tossicologica per accertare questo stato di uso della sostanza. Sì, poi, ovviamente, tecnicamente, se ci sono basi per poter chiedere la perizia psichiatrica, penso che anche per l'efferatezza sì. del fatto contestato sia doveroso. Da cioè parte lei pensa che non, sia in, che non fosse in grado di intendere di volere il suo no, assistito? No, guardi, io questo non lo so. Non sono, non però sono lei punta su quello, però punterà su quello. Ma punterà, direi che è un obbligo che un avvocato ha quando c'è un fatto no, infatti, così grave. Certo. Sia nell'esecuzione sia per quanto riguarda cercare di far prendere meno anni possibile al suo assistito. Questo è il nostro sistema. Se noi riusciamo a dimostrare che lui non voleva in quel momento questo sì. fatto così grave, è chiaro che l'infermità anche parziale è un tema che va esplorato. Però avvocato, ho letto da qualche parte che avevano intenzione proprio di ucciderlo, cioè sembra proprio una cosa premeditata. C'era una volontà. Una volontà, cioè chiamarlo per poi ammazzarlo. Un conto è la volontà e un conto è la premeditazione. Su questi due aspetti si gioca l'aggravante che poi può sì. arrivare fino alla richiesta del ragazzo. Senta, ma ho letto da qualche parte che lei ci ha parlato ed è pentito? Cioè... Beh sì, non cioè, so ci ha parlato? Io, ma lo ha detto anche, ci ho parlato quando l'hanno arrestato perché l'ho sì. fatto costituire. Sì. Ed è pentito, vabbè, questo ovviamente si pentito, dice... Pentito, beh, un po' difficile. Di... Beh sì, così ha detto, no? O no? Beh, guardi, lui è molto dispiaciuto e quindi vabbè, è quello. Pentitissimo di quello che ha fatto. Quando si è reso conto di quello che ha fatto, ha subito chiamato, l'ha detto al padre, il padre ha chiamato me sì. e l'abbiamo fatto costituire immediatamente. Senta, ma in carcere, il padre in carcere non ha preso soldi per andare a Porta a Porta? No, direi proprio di no. Cioè lo esclude o pensa di sì? Su un fatto, lo escludo categoricamente perché su un fatto di questo genere io penso che chiunque debba chiedere soldi sarebbe un peccato ulteriore gravissimo. Meno male, io di questo ero abbastanza certo, David. No, per carità, io anch'io, poi per carità. Solo per sapere. No, ma è corretta la vostra domanda, però io posso escludere con certezza che lui abbia chiesto o ottenuto soldi. Senta, nel gioco che si è creato, sembra, no? Quella sera, gioco tremendo, terrificante, chi è che comandava le operazioni? Questo non si sa. Cioè il colpo mortale chi l'ha dato secondo quello il che... Il colpo mortale, secondo il mio assistito, lo ha dato il suo amico l'altro. Marco. Cioè la coltellata nel finale. Beh, non cambia molto però. Ma direi di no, se vogliamo essere seri e oggettivi, però... è chiaro che l'episodio deve ancora essere in tutti i suoi passaggi sì. Cristallizzato, rimane il fatto gravissimo. Senta, ma lui adesso voglio dire, lei è l'avvocato, no? Tutte addirittura qualcuno invoca la pena di morte qui per una cosa così efferata, ma siamo su un altro piano. Ma cioè, adesso da avvocato, diciamo da estero, mettiamo che lei in questo momento meriterebbe l'ergastolo, una cosa del genere? Cioè, è da ergastolo un assassino così efferato o no? Se c'è, verrà dimostrata la capacità di intendere, quindi la volontarietà e la premeditazione, il 577 secondo comma, questo prevede. Sì, d'accordo, e questo è la legge. Quello che ha già contestato il pubblico ministero. Ma lei che pensa, che è d'ergastolo questa situazione? Lo so che è difficile dividersi. A me dividersi. Questo lei non me lo può chiedere, perché è ovvio che io difendo Manuel Popo e devo... come dire, cercare di portare a casa al massimo cioè il minimo. Senta, ma lui è omosessuale o comunque ha avuto rapporti mai omosessuali? Lui ha detto di no. Ma c'entra la questione omosessuale in tutta questa vicenda? Qualcuno l'ha sollevata? Cioè un delitto? È un tema che è uscito fuori, però lui non è omosessuale, anche per un grande rispetto che bisogna avere per la famiglia del povero ragazzo che non c'è più. Preferirei non parlarne. No, ma lui, nel senso, il suo assistito è omosessuale o no? No. Il mio assistito ha detto di non essere omosessuale. E si è mai prostituito, che lei sappia? No, che io sappia no, e lui ha escluso anche questa ipotesi. La ringrazio, buona serata. Niente, grazie. Molto gentile, grazie, buonasera. Allora ragazzi, siamo qui e ci sentiamo con voi, ascoltatori, in massa, è 800 24 00 24, dopo il giro. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzare. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Centa. Pierluigi Pardo. Ancora tu. Ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo... programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport, dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai Idomeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. La Zanzara. Cruciani, io non conoscevo la Zanzara e da una settimana ne sono diventata dipendente. Questa storia dei 200.000 euro me la voglio vedere fino alla fine. Ma qui, amica mia, non c'è una fine, eh? Ci sarà la fine. Che end! Finiti i giochi, devi metterci il cartello quando vai in giro adesso, ci sarà la che fine. Fa un cartello sul ci culo, l'ho scritto The End dietro, non ho capito. Non ho detto dove, me lo devi mettere, perché i giochi sono finiti. Ma no! Non le jeux sans faire, no? I giochi ormai per te sono finiti, sì, sono non partite, c'è finito, nessuno... raccolte fondi, sì, vabbè, crowdfunding, vediamo se qualcuno... di tutto sta avvenendo. D'accordo, tutto. Vediamo no. Se qualcuno avrà il coraggio, sì. Anche attraverso il crowdfunding, ma non metto limiti, cioè torno indietro su quello che avevo detto prima. Si può fare anche con la raccolta di fondi, volete fare una raccolta di fondi? Siete così deficienti da raccogliere 200.000 euro mettendo non so quanto a testa per vedermi sodomizzato? Va benissimo, fatelo pure, ma presentate questi quattrini, presentatemi questo assegno e vediamo. Anzi, poi tu dove, una volta abbiate fatto, il coraggio di farlo. Sì, ma una volta fatto e ottenuti 200.000 euro dovresti girarli in beneficenza alla Io, Zanzara. Alla Zanzara 200.000 euro. Beh sì, certo, oppure a un campo rom ad esempio. Ma vattene, ci compro un appartamentino. Grande, ma quale appartamento? Dove sei, ma un grande atto vai? Di libertà, dici va bene, adesso ho fatto questa pratica, mi avete dato 200.000 euro, non li voglio. Ma nella li do al più campo rom di sì, via Triboniano, ad esempio. Sarebbe un grande atto. Quelli vanno sgomberati immediatamente, altro che grande, altro sarebbe... che 200.000 euro al campo rom, perché fare? Quelli sono già ricchi di loro, no, però rubano qualsiasi cosa. No, dici così, non mi voglio arricchire io su questa cosa, mi è anche piaciuto, quindi do i soldi. No, quello non ai lo so. Rom. Quello francamente non lo so, non si può nemmeno escludere, perché tu puoi escluderlo che ti possa piacere. Nella maniera più totale. No, che come lo fai, escludo sì. Di mangiare il piccione, il coccodrillo, cose piccione, che non, perché mi... non puoi mangiare il piccione, o il cane, escludo di mangiare il cane, ecco, sono cose che non mi fanno un po' senso, ecco, mi fa un po' senso. Ragazzi, in onore della festa della donna, vorrei proporre quello che nei giorni scorsi Vittorione Sgarbi ha detto qui alla Zanzara, amico mio. Perché siamo, non dico al top, ma quasi al top. Andiamo con un'affermazione molto forte. Quando gli abbiamo chiesto delle donne, delle ragazzine, che lui ogni tanto, una ragazzina nel senso maggiorenni, lui ogni tanto quando va in giro ci prova, insomma, no, questo è... Lui ha detto, allora la donna è stata creata da Dio per... Le ragazze perché esistono? Perché noi le prendiamo, no? Perché Dio ha creato le ragazze? Perché noi ci occupiamo di loro, no? Non mi direi che non esistono per quello. Le ragazze esistono perché noi ci occupiamo di loro. Sì, ma la prostituzione, se è spontanea, non ha problemi di età. Se una che fa la troia può cominciare a farlo anche a 16 anni, se decide di farlo. Se poi una ha la natura di fare la studiosa o l'ingegnere o l'architetto ed è costretta da uno stronzo a prostituirsi, quello è quello che si configura come sfruttamento. Quella è una cosa diversa. Io parlo della spontanea predilezione di una ragazza per sedurre. Secondo me comincia a 15-16 anni. Cioè la donna inizia a sedurre a 15-16 anni. 15-16 anni. Anche lui, dice Sgarbi, ha frequentato minorenni. Non ho mai avuto una predilezione per i minorenni, ma sicuramente ne ho frequentate. E non mi sono sembrate ingenue a priori perché minorenne, trovate genue piuttosto donne di 30 anni o 40 anni. Però la figlia, perché tu devi sapere, Parenzo, che ha anche una figlia, sì, anche sì, una figlia che ha riconosciuto Sgarbi. Però la vorrebbe in convento. Sì, vedi. In convento, perché dice questo mo. Senti, senti questa roba. Se fosse nella mia visione, sarei felice di indurre la madre a mettere la figlia in convento. Perché? No. La mia visione del futuro, come dire, migliore per una ragazza oggi è che si chiuda in convento e mediti al suo destino. Però io ho una critica da fare a Sgarbone, perché si è pentito di aver detto a Bendola nei giorni scorsi delle cose anche piuttosto dure sull'utero in affitto. Per esempio ha detto che dal culo di Bendola, o comunque dal culo in generale, non esce niente. Queste proprio le parole di Sgarbi, sto utilizzando, non sto facendo metafore, non sto utilizzando altre parole. Ha detto: dal culo non esce niente. Risentiamo, perché è sempre importante risentire. Non può essere un figlio, dal culo non esce niente, quindi non so cosa sia. Il bambino diventa nient'altro che lo strumento di un capriccio di due che vogliono fare il padre e la madre. Però poi si è pentito di averlo detto. Si è pentito di averlo detto. Ora, amico mio, o fai sgarbi, oppure non è che. Ma ho capito. Ma tu perché sei contro quelli che poi chiedono scusa? Ma no, scusa, sì, io sono contro quelli che ritrattano. Se sei Sgarbi. Ma no, ritratti, no. Gente che dice magari forse ho esagerato, in un momento di euforia ho sbagliato. No, ma se ecco, tu ritratti. Non se ci tu... vedo nulla di male io in questo. Ma se sai. Tu ritratti e dici. Ma ho capito, allora non sei Sgarbi. Allora ma non sei Sgarbi. Ma uno può dire comunque delle cose forti e poi c'è dovuto dire, guarda, questa volta ho esagerato, chiedo scusa. No, ma non. Impara da Vittorio, sii umile anche tu. Ogni tanto chiedi scusa. Ma io non devo chiedere scusa di nulla. Dio, ho sbagliato. Ogni tanto non succede niente. Mi dispiace la violenza con cui ho espresso il mio pensiero. Va bene, vedi, è civile, ma è una persona elegante. Ma non anche c'entra niente. Gentile. Ma ho capito, uno che dice dal culo non esce niente e poi ritratti. Poi dice forse ho esagerato, chiedo scusa. È una parola bellissima dire chiedo scusa, ho sbagliato. Non so se ha chiesto scusa poi in realtà. Ha detto ho sbagliato. Allora, di Vendola non posso parlare. No, di Vendola non posso parlare perché ho simpatia per lui e mi dispiace di averlo trattato in modo violento nelle parole. Dai, su, ma è una cosa ridicola. Bravissimo, Vittorio è una persona ben educata. Ma che c'entra? Vittorio è una persona ben educata, d'accordo. Allora, molto ben educata. Allora, di fronte a certe cose che ha detto, ti voglio sentire ripetere queste parole. Ti voglio sentire. No, ha chiesto scusa. Cioè, dal culo non esce niente. Ma ha detto che ha esagerato, infatti, ha chiesto scusa. No, mi pare. Si è pentito anche lui. Ogni tanto fa bene dire. Tu lo sai qual è la verità? La verità, secondo me, è questa. Nei giorni scorsi ho letto che gli avvocati di Vendola sono in azione non solo per la questione legale che riguarda il figlio. Ma testuale, credo che sia un articolo sul Libro di Franco Bechis, testuale, hanno detto, hanno diffidato televisioni, radio, giornali a riportare le affermazioni di Sgarbi, minacciando fuoco e fiamme. Ma no, ma questa è la realtà. Cioè, forse, è legittimo forse, che lo facciano anche, no? Allora, uno se la fa sotto, ma Sgarbi no, non se la può fare sotto. Non se la fa mai sotto. Non Sgarbi. Se la può fare Vittorio sotto, Vittorione. Ha capito di averla detta un po' grossa e ha chiesto scusa. È una cosa molto umana e molto bella che tu dovresti dire, beh, bello, bel gesto, guarda, veramente. Marco da Varese, 800240024, Marco, vai. Buonasera, Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi, dai, dai. Volevo intervenire sulla sfera corta. Su chi? Su chi? Sul delitto romano. Sì, di dimmi, Foppa. Dimmi, Foffo, e Foffo si chiama, assurdo, uno dei due omicidi, sì. Scusa, trovo assurdo quello che ha detto il padre di uno degli assassini. Cioè? Capisco che un genitore debba difendere il figlio, comunque e sempre, ma le parole usate veramente sono scandalose. Tipo? Ma quando ha giustificato il figlio dicendo che è un bravo ragazzo. Vabbè, ragazzi, ma che deve dire il padre? Sì, no, appunto. Cioè, il padre non può dire altrimenti, non è che può dire un delinquente che va, certo. Gli dobbiamo tagliare la gola. Certo, ma non può neanche giustificare quello che lui ha fatto. Ma non sta giustificando niente, non sta giustificando l'assassinio. Comunque, io Marco, in parte sono d'accordo con te, perché continuare ad andare in televisione a dire è un bravo ragazzo non ha alcun senso. È evidente che il padre non conosce la vita del figlio, come molti nostri padri non conoscono le nostre vite. E come noi non conosceremo le vite dei nostri figli, perché è così, è naturale, uno a un certo punto fa i cazzi suoi. In questo caso il padre non sapeva nulla, perché non poteva immaginare fino a dove poteva arrivare il figlio. Giuseppe da Napoli, vai. Pronto? Dimmi Giuseppe, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Vai. Volevo intervenire sulla Boldrini. Allora, premessa, io odio la Boldrini. Odio. È tutto quello che rappresenta. E allora? Però credo che questa volta abbia detto una cosa che un minimo di intelligenza ce l'ha. Cioè quale, scusa? Della notte, è difficile capire dove sia l'intelligenza della cosa che dice la Boldrini. Nasce però da una tragedia. Sì. Nasce da una fabbrica incendiata, lo sai, nel 1911. Dove sì, me lo hai ricordato te adesso, altrimenti me lo sarei scordato. Ormai è diventata solo la classica strumpata della mimosa, della sera che la sì, donna. Ma ragazzi, ma cosa c'entra il femminicidio con la festa della donna, le uccisioni delle donne, che peraltro non esiste? Il femminicidio è una cosa che non esiste, esistono gli omicidi. Esistono. Poi, naturalmente, ci sono degli omicidi fatti è un termine inutile dai compagni nei confronti delle donne, eccetera, eccetera, ma per fortuna non c'è nessuna aggravante. Se non quella che c'è per un omicidio magari efferato, cioè non è che se tu ammazzi una donna prendi degli anni più, per fortuna. Esatto, non esiste neanche il maschicidio, questa è una delle altre cazzate. Vabbè, ho capito, e allora che ti piace? Non ho capito su cosa sei d'accordo. Dici, odio la Boldrini, fatto una delle tante cazzate che dice, però sono d'accordo, su che cosa? L'unica cosa che dice intelligente è che la festa della donna dovrebbe essere una festa di consapevolezza, non una festa... Consapevolezza, io non la voglio sentire questa parola, la consapevolezza, le bandiere a mezz'asta. Lasciatemi perdere, fermi tutti. Voglio più zanzara e meno pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Fiera Milano 15-18 marzo. La Zanzara. Cruciani, capisco che te per la Celentano daresti anche via il culo, ma pure la pubblicità del suo programma sul podcast, no cazzo, dai. Cioè capisco, capisco tutto, Parenzo, però mi hanno riferito che nel podcast della Zanzara mettono la pubblicità di un altro programma, cioè una cosa incredibile, cioè sì, capisco la pubblicità così pagata, ma perché devono mettere la pubblicità, credo, così mi riferiscono gli ascoltatori che puntualmente, ma non mi sembra, è uno scandalo, come delle sentinelle, come dei guardiani, no, cioè le sentinelle in piedi della Zanzara, esatto, le sentinelle in piedi della Zanzara, mi riferiscono che nel nostro podcast, vengono inseriti promo di altri programmi. Benissimo, non è sbagliato, ottimo, ma promuovere tutto, una cosa incredibile, ottimo, sinergie editoriali, direbbe Roberto Napoletano. Allora, a Palermo sta succedendo un casino, sì. Sta succedendo un inferno. No, ma anche a Napoli mi pare, oltre che a Palermo. Perché a Napoli per le primarie del PD. Ma amico mio, non vogliamo parlare di questo. Sì, ne parliamo, c'è tempo. Delle denunzie del signor bellissimo, Bassolino. Denunzie bellissime. Amico mio. Però a Palermo sta succedendo il casino con il nostro amico Zampa. Amico mio, la Zampa per l'ennesima volta, che è una cosa che interessa molte più persone, il calcio, sono le primarie del Partito Democratico a Napoli. Io cercherei, mi hanno detto che è sulla scaletta dell'aereo praticamente, mi riferiscono. Proverei si sta buttando giù, si sta buttando. No, perché l'aereo. Poveraccio, no, adesso. No, non lo so, magari è depresso, incavolato, che ne so io. Proviamo a fare sto collegamento. Maurizio? Chi è? Sono Cruciani, come stai? Bene, però sono in aereo e sto decollando. Ma che è successo? Spiegami un attimo velocemente che è successo. Non lo so, c'è Iachini che se ne vuole andare, noi con i giocatori cerchiamo di fermarlo, vediamo. Okay? Come cercate di fermarlo? Che vuol dire? Cerchiamo di non fargli dare dimissioni, che rimanga, che ci crediamo ancora in lui. Ma perché sei incazzato? Per quello che hai detto l'altro giorno? No, non lo so, motivi suoi. Cosa ho detto l'altro giorno? No, hai detto che avete giocato male, eccetera, eccetera. No, hanno detto tutti che ha giocato male, devo dire che ha giocato bene. No, ho capito, ma cercate di fermarlo, che vuol dire? Perché c'è stato questo? Vuol dire che non dire dimissioni, perché vuol dire che vogliamo che rimanga ancora con noi. E invece lui che cosa vuole fare? Che ti ha detto che non vuole... Non lo so, ha detto che vuole andare via, vediamo, dai, cruciare. No, ma ho capito, ma... No, ma perché c'è questa tensione? Dai, sei teso, sei arrabbiato. Quest'anno è un'annata così, Schelotto è andato via perché è andato al Boca. Lui andrà via, non lo so perché, che cazzo, non è che sappia io. No, ma ho capito, ma c'è tensione, però, c'è tensione, dai. Dimissioni io così ho finito, capito? Ecco, appunto. Alla fine appunto. Ti sei rotto i coglioni e ti dimetti tu, dici. Esatto. Ma io non ho capito una cosa, l'ultima rottura, Maurizio, io ti voglio bene, ma l'ultima rottura da che cosa dipende? Non lo so, probabilmente che, non lo so, perché lui non vuole dialogare con la società. Vuole che a un certo momento non lo so, è impazzito, non è più gli Iachini che ho trovato io, non lo so. Ma è incazzato quello lì, si sente sfiduciato, assediato. No, lui dice che con me è un amico e che non vuole avere discussioni con me sul calcio. Sono le cose incomprensibili, cruciali. Non vuole che metti bocca, diciamo la verità. Ma non lo so. non lo so. Ma come non lo so? No, non lo so. È così, perché l'ultima volta tu poi te sei uscito dicendo giochiamo male, hai paura della B, eccetera, eccetera, e lui si è incazzato un'altra volta. Ma scusa, perché uno che è proprietario della Formula 1 e arriva quarto e dice cazzo il motore non reggeva, ho paura di arrivare ultimo, che cazzo è? Non lo devi dire. No, ma io non ho capito una cosa, ma adesso com'è la situazione? Questa storia rischia di danneggiarti ancora di più? Ma sicuramente, perché io adesso sono senza allenatore, io devo sentire poi che ha risolto il contratto Ballardini, si accetta di tornare, vediamo un momentino, sono in difficoltà. Ma pure tu non te ne potevi sta zitto una volta tanto, non te potevi sta zitto. Ma scusatemi, ma voi che mi chiamate a parlare, a commentare, ma io perché cazzo devo avere una squadra e devo star zitto? Ho detto ha giocato male, perché ha giocato bene. E lui si è incazzato. Ma perché difendete sempre gli allenatori? Io non riesco a capire questo da voi. Ma no, ma lo sto difendendo, figurati se lo difendo, sto dicendo sempre. Questo è un deficiente che sta facendo giocare male la squadra. E perdere partite nelle ultime 13 partite, ha fatto la media di 0,7 a partita. Per cui un campionato farebbe 27 punti, no? E a un certo momento non accetta neanche che noi diciamo cazzo, cerca di mettere la squadra meglio in campo, perché entra in campo con la mentalità perdente. Beh, lui dunque psicologicamente com'è? A terra, cioè lui, Iachini è impazzito. Iachini non ne frega un cazzo. Iachini ha chiuso il contratto, avrà già un contratto con un'altra squadra per l'anno prossimo. Ma se vai in B che c'hai? Che succede se vai in B? Se vai in B, cioè se tu vai in B, prendo un altro allenatore, noi Iachini di sicuro. No, ma se tu vai in B che fai? Che succede al Palermo se vai in B? Ma il Palermo prima di tutto non va in B. Amico mio, però stiamo lì col Frosinone. Ma vendi tutto, te vai, ma basta. Noi al Frosinone gli abbiamo dato 4, sai cosa c'ha il Frosinone? Che c'ha? Il Frosinone corre a giocatori da Serie B, non da Serie A. Esatto, noi abbiamo giocatori da Serie A bravi e noi arriveremo a 7 punti davanti al Frosinone. Però, okay? sono compatti quelli, amico mio, sono compatti, c'hanno l'allenatore. E saremo compatti anche noi. E con chi? Con Viviani? Con quale allenatore? Ma per l'amor di Dio, Viviani, cazzo, senza Viviani. Vabbè, ho capito, chi piazzi là se Iachini non vuole restare? Chi c'hai? Ci sarà Ballardini, penso, adesso lo interpello, vediamo un po'. Mamma mia, che casino, amico mio. Vabbè, t'abbraccio, ciao, presto, ciao. Mamma mia, Zampa, oh, scatenato. Ma certo, adesso voglio dire, no, ma questo allenatore qui, Parenzo, adesso tu capisci poco di pallone, no? Cioè, allenatore che ti dicono è un deficiente, giochi male, sì, sei impazzito. Sì, non starei bene, ecco, non mi sentirei va a mio bene agio, i soldi, lì. Va bene il contratto, va bene tornare, va bene i quattrini e tutto. Però, dai, su. È davvero un grande distributore di posti di lavoro, l'amico Zamparini. Su questo sì. dovrebbe starti simpatico. È uno che regala posti di lavoro, su questo non c'è dubbio. Molto, con una certa velocità li crea e li distrugge, però. No, distrugge no, perché questi fino alla fine del contratto vengono pagati uguale. Poi li manda. Ah, sì, beh, in questo caso sì. Allora, Alfeno, credo che sia così. Alfeno da Modena, vai. Sì, sono io, buonasera. Ti chiami Alfeno? Sì, mi chiamo Alfeno. Alfeno. La mia telefonata, Cruciani, era questa qua. Avete parlato migliaia e migliaia. Perché uno? Di parole. Cosa significa Alfeno? Ecco, per curiosità. Alfeno è un giurista cremonese dell'Ottocento. Mamma mia, proprio alto livello qui. No, alto livello, un nome difficile. Alfeno, un giurista dell'Ottocento. Bene. Così mi è stato detto da uno dei vostri ragazzi che ci avete lì in segreteria. Ma scusami un attimo, lo sappiamo noi, non lo sapete. Beh, non lo sa lei, a me non risulta. Alfeno, chi ti ha detto a te? Quale ragazzo della segreteria? Non lo so, c'era uno. Uno che si chiama Alfeno, adesso per carità, uno che si chiama Alfeno, perché non capisce come si chiama? Cioè, dovresti essere il primo tu a dire, saperlo, no? Cioè, hai vissuto quanti anni? 60, sì, quello io, è, senza sapere che cazzo vuol dire il nome Alfeno. Questo nome difficile che eventualmente. Non l'ho mai sentito in giro. Vabbè, questo, ma mi scusa, è stato riferito che era di un giurista parmense o cremonese. Mi è stato riferito, è pazzesco, dai. Il motivo della telefonata, Cruciani, era questo. Dimmi. Avete parlato migliaia di parole di quest'utero in affitto, di tutte queste cavolate. Sì, più o meno, ma sì. Del bimbo che nasce, che quando avrà qualche 8-10 anni si chiederà, ma io dov'è la mia mamma? Va bene, ma è un vecchio discorso, dai, su, lo sappiamo. Perché sono qua? Non è vero, può darsi. Perché non ho sentito fare nessuno di questi argomenti. Non avete calcolato l'individuo che nasce in questo modo? L'individuo che nasce si chiederà e gli spiegheranno se è nato in un certo modo, se è nato in un altro modo, punto e basta. Sì, e lui dirà, allora io sono figlio di una baldracca che mi ha fatto e poi mi ha venduto. Amico mio, ma la parola perché? Scusa un attimo, ma chi cazzo ti dà il diritto di dire che quella è una baldracca? Scusa, chi ti dà il diritto di dire? Una mamma che fa un figlio e poi lo vende, che cos'è? Ma non lo vende, ma non è così, ma ragazzi, però non è così semplice. La vendita, c'è un contratto. D'accordo, vecchio mio. È così, c'è un contratto. Ma perché avete paura delle parole? No, ma è così. Quello è un forno, dove si mette la torta dentro. Allora, a lievitare. Allora perché non lo dici anche tu che è una baldracca quella là? Perché non lo dici anche tu che è una baldracca? È un'altra forma di sfruttamento. C'è la prostituzione. La donna che lo fa è una prostituta. Ho detto che è un'altra forma di sfruttamento. La prostituta è quella che è quella che fa quell'attività specifica. Alfeno ha detto che è una baldracca. Alfeno sbaglia, perché Alfeno è questo. È sicuramente una donna che... utero in affitto, come lo chiamano? Vabbè, Alfeno, allora? Ragazzi. No, allora facevo anche questo abbinamento. Il figlio di Parenzo e il figlio di quel... di Vendola, sono nati più o meno nello stesso periodo. Sì, quasi lo stesso giorno, sì. Ma mettiti anche nel posto di questi bimbi, come ti troveresti? Perché io mi sono trovato in difficoltà. Ma che c'entra? Il figlio di Parenzo è nato in maniera diversa. No, il figlio di Parenzo avrà una mamma e un papà che lo accarezzano. Che cavolo c'ha? Papà che lo accarezzano lo stesso, adesso non è questo il tema, amico mio, non c'entra niente. Comunque è un problema che mi sono posto, ho detto, sono tre settimane. Scusami, Alfeno, che non sa che cosa significa il suo nome, signor Alfeno. Alfano a Bari, Alfeno. Alfeno, sì, è vero, Alfeno. Alfano a Bari, lo chiamo così. È vero, Alfeno, che è da tre settimane però che ne parliamo, io non vorrei per carità, è da tre settimane che poniamo anche questo interrogativo sul figlio eccetera eccetera. Nicola da Caserta, vai Nicola. Pronto? Nicola, c'era una cosa strepitosa su web, Parenzo con una copertina finta di chi, con Nicky Vendola un po' ingrassato, vi racconto come sono tornato in forma dopo il parto, stupendo. Nicola da Caserta. Vai, dimmi. Auguri ad Aronno Parenzo. Grazie. Aronno si chiamerà. Ti volevo dire una cosa, Sgarbi non ha vergogna in faccia. Sì, aspetta, però ti sento male, Nicola. Sono sulla strada, Ho capito, però se sei sulla strada, noi che cazzo ce ne frega, scusa, Nicola. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi, dai. Sto dicendo che Sgarbi non ha vergogna nella faccia sua. Non ha vergogna nella faccia sua, cioè... spiego perché, c'ha le carni antiche come noi. Uno che supera i 55 se arriva ai 70 anni. C'ha le carni un pochettino flaccidelle. Vabbè, Nicola, ti devo richiamare. Federico da Milano, dai. Sono Federico. Ieri una ragazza ha telefonato argomentando a favore dello scambismo, sì. Però l'ha fatto in modo molto vago. Io vorrei dare un fondamento un pochino più razionale. Un fondamento scientifico a questa cosa. Sì, esatto, basato sull'osservazione della realtà. Prima osservazione, monogamia e monoandria sono contro natura. Ti abbraccio fortissimo. Quindi l'avere un compagno / compagna carciofo non ti salva da questo, perché la mia esperienza è che non c'è carciofo vescicolardo che non riesca a combinarsi un amante. E a questo punto è ineluttabile che uno si trovi tradito. È una componente è una sua teoria, sta sviluppando una sua teoria. Dunque è un antidoto per che cosa? È un antidoto alla gelosia, perché una componente della gelosia è l'invidia, cioè il fatto che mentre l'altro si sta zompando, sì, godendo la vita con qualcuno, tu magari sei lì a lavorare, a vari piatti, cose di questo genere. E quindi il fatto, la contemporaneità del tradimento, quindi il fatto di... Cioè il tradimento contemporaneo? Cioè... Esatto, il godere altrettanto con un'altra persona, in qualche modo controbilancia, riduce questa condizione di disagio che, ripeto, è ineluttabile. Bene, potresti fare una specie di trattato sullo scambismo, diciamo, il trattato sullo scambismo. Potrei tranquillamente farlo, poi sono un ingegnere, quindi affronto le cose in modo molto razionale. Ma un ingegnere che pratica anche questa arte? Questo è assolutamente irrilevante. No, è irrilevante. Adesso non è che puoi chiamare e non sottoporti anche a questa domanda. Cioè, tu sei uno scambista? No, non lo sono. Io semplicemente le cose quando mi sono successe purtroppo sono sempre avvenute sfasate, per cui io mi sono beccato ti sei beccato il tradimento e hai tradito esatto, però, lo vorresti fare? Però non... ambisce, non contemporaneo, allora. Ambisce, non contemporaneamente, quindi entrambi abbiamo avuto il fastidio del subirlo, e cose che forse sicuramente sarebbe stata molto meno intensa. Però ambisci a diventarlo uno scambista? No, assolutamente, ormai penso di essere fuori gioco, perché vado verso i 60 per allestire una versione degna di questo nome, ci mette un sacco di tempo, quindi addirittura. Cioè, Parenzo, questo qua ci sta prospettando un finale di stagione per noi drammatico. Capito? No, per noi, per te, che sei io. Ma per sono tutti, per tutti. Neo quarantenne, quindi ho ancora vita lunga. Tu, indubbiamente, stai rilanciando la tua sessualità anche con questa lodevole iniziativa che ti vede protagonista a 200.000 euro. Diciamo. Quindi stai già pensando al tuo futuro. Cioè, diciamo. Sto quindi già pensando al dopo, dici. Stai pensando già al dopo, ma è giusto che tu pensi alla vecchiaia, insomma. Quindi va bene, ti alleni in una parte che ancora non hai usato fino in fondo. Bene, comunque è lodevole che tu pensi al futuro. Ma non è così, non è così. Va bene, è così, così come. Viva Goldrake, che ammazza i vegani. La zanzara. Parenzo, che per un milione di euro non si fa anche a pietà. A Parenzo, tu per un milione di euro fa pure la ricevuta che la fattura. Questo non è male, però, Non è male questo. Questo è fortunato. È fortunato che l'avvocato in questi giorni è in vacanza, perché altrimenti. Partiva la letterina per la diffamazione. Che sarà male. Partiva, dai, una richiesta danni minima, 80.000 euro. Partiva. Fortunato, perché Trucco è in vacanza in questi giorni a St. Moritz, per cui. Ma non è vero! Sì, te lo dico. Ma non è vero! Dato a St. Moritz, te lo dico io. Allora, sono curioso di sapere cosa ne pensa della vicenda drammatica di Roma, cocaina, eccetera, eccetera, insomma, l'uccisione di quel ragazzo Parani. Carlo Giovanardi, buonasera, buonasera. Sì, buonasera, come va? State caro, bene? Bene, non c'è male, combattiamo. Allora, la prima domanda, caro Carlo, è questa. Ma la cocaina... Caro, no? Carlo, la cocaina... Sono. Non so, io lo conosco, perché. E dico caro Carlo perché è un modo di parlare, sì, un modo di dire. Ma che cosa è che non ti sta bene? Che no, chiamo Giovanna... No, perché, non l'ho capito, è un mostro che deve essere messo lì a... non lo so, nemmeno posso dire caro Carlo. Guarda che sei incredibile, No, cioè, no, però, perché... Cioè, tu dà già l'idea della distanza che tiene con l'interlocutore. Ma non dire stupidaggini, dai. Oddio mio. Allora, la cocaina quanto c'entra in questa vicenda? Cioè, è una roba fondamentale. La cocaina rovina la vita, chi la spunta? Eccolo questo. E rovina la vita. Ci voleva Giovanardi. Sì, no, d'accordo, però per esempio nel caso di Perugia, un altro caso famosissimo, sì, che ha distrutto la vita alla ragazza che è stata uccisa, ma anche a quelli che sono stati anni e anni sotto processo, sì. Il loro problema era che comunque quella notte non sapevano che cosa facevano, perché erano talmente fatti che non erano in grado di gestirsi. Chi dici? Quelli di Perugia, cioè Sollecito, sì. Amanda Knox, certo, eccetera, certo. Erano strafatti quella notte, dici? Certo, e quindi hanno avuto tutta una serie di conseguenze dopo, perché non sono stati in grado di ricostruire le cose che erano avvenute. Però non mi sembra che erano strafatti di cocaina, scusa. Fai il parlamentare, no, o il tenente Colombo? Erano strafatti. Beh, io ogni tanto leggo i giornali, seguo i processi. Il tenente Colombo? Ma io non so. In grado di vedere le cose. Come sì, mi sembra, non so se lo volete negare, che i due che l'altro giorno hanno combinato quel disastro fossero strafatti. No, quello sicuro, quello sicuro, quello sicuro. Quello sicuro al 100%. Allora, sicuro. Allora, la cocaina purtroppo ha degli effetti nefasti che si scaricano poi, come tutti sanno, sì, però non solo su chi ne fa uso, ma per esempio sui clienti di grandi avvocati, di commercialisti, di medici, che quando la cocaina gli fa perdere il contatto con la realtà. E quindi non solo distruggono loro stessi, le loro famiglie, basta andare nelle comunità, o parlo di gente importante che si è distrutta in quella maniera, ma anche trascinano nel baratro le persone che si sono fidate di loro. Ma secondo te in Parlamento, per esempio, gira cocaina? No, io non credo, come noto, non escludo che anche storicamente sia stato chi ne abbia fatto uso, no, ma sappiamo tutti chi, ma adesso non. Secondo me gira esattamente come gira in tutti gli ambienti. Ma non lo sappiamo veramente in Parlamento, chi è? Guardi, l'ambiente è un ambiente abbastanza piccolo, e quindi quando c'è stato qualcuno che usava la cocaina... Ma chi l'ha usata, scusa? Emilio Colombo. Emilio Colombo. Lo diceva, ne parlava, e lo ha ammesso. Quindi se c'è qualcuno che lo ha ammesso, usa, non lo so, ha detto per scopo, per scopo medico. Certo, però lo usava. Poi bisogna vedere se era davvero così. lui questa cosa. No, ma secondo te tra i parlamentari, tu sei al Senato, scusami. No, secondo me. Tu sei al Senato, oggi in Senato gira cocaina? Secondo me, no, in Senato assolutamente no. Qualcuno l'ha detto, un tuo collega, per esempio, Barani, credo l'abbia detto. Di sciocchezze ce ne dicono tante, poi se si possono fare battute, che ci sia qualche senatore che faccia uso di droghe, come qualche deputato, come qualche giornalista. Come qualche. No, dunque, anche in Senato si consuma cocaina. Cioè questo secondo me, ho detto che è possibile che in Senato, come in tutti gli altri posti, arrivi qualcuno che magari. Cioè, tu guardando le persone in faccia, guardando le persone in faccia, non vedi qualcuno cocainato? Qualche volta si vede qualcuno che quando interviene, diciamo che è talmente agitato che uno potrebbe pensare che può avere qualche problema di questo tipo. Cioè, l'hai pensato poi, tu qualche volta? Le diagnosi non si fanno. No, d'accordo, non si fanno le diagnosi. Rimane solo, magari uno dice quando Giovanardi si agita e mi agito spesso, però io potrei rispondere come disse Sgarbi in una famosa frase in Parlamento. La cocaina si eccita quando mi vede. Disse, sono io che eccito la cocaina. Sì. Ricordo. Sì, no, d'accordo, però tu guardando, che ne so, qualche intervento di qualche senatore, dei tuoi colleghi, dici questo qua si è preso la cocaina. Il dubbio io, viene. Stamattina ho scritto un pezzetto perché mi è venuto di collegare tre casi, sono diversi fra di loro, però sì. Uno è quello di quei due signori che hanno ammazzato la Rosbock. Sì, ma tu hai parlato di gay, ho letto, tu hai parlato di gay, ma che c'entrano i gay con questo? No, c'entrano col fatto, allora ho messo insieme quei due che hanno ammazzato in maniera efferata quella donna, ed erano amanti fra di loro. Ho messo insieme questo mondo, ahimè, che è emerso. A parte la fine che hanno fatto fare a questo signore, quale mondo? Degli organizzatori di queste vicende sabato e domenica, di queste, chiamiamolo come voi, incontri a base di cocaina. Sì, ma che c'entrano i gay? Dove? Scusa. Beh, questo era un ambiente tutto gay, Ma che ambiente gay? Non è vero, non questo è vero. Era un ambiente come lui organizzava. Ma non c'è nessun ambiente gay. Il Corriere Repubblica vi metteranno a corrente, anche se con molto tatto, della situazione. Aspetta, di quello che organizzava, cosa avveniva in queste feste. Aspetta un attimo che c'è la pubblicità. Guarda che i gay in questa vicenda qui non c'entrano veramente nulla. Aspetta. Cruciani, ma va suca. La Zanzara. Ospedale di Norwich, turno di notte. Il menù prevede podcast della Zanzara e un bel panino al prosciutto. Un vaffanculo ai vegani, con tutto il rispetto delle autorità civili e sanitarie. Allora ragazzi, siamo con Carlo Giovanardi, senatore. Carlo, io voglio capire una cosa. Scusa per la precisione, leggevo proprio qua che la CNOS e Sollecito, accusati, dichiararono che non ricordavano cos'era successo avendo fatto uso di droga. Sì, no, ma ho capito, ma questo non c'è, tu hai detto che erano strafatti. Il termine strafatto era, aveva fatto uso di droga, quindi lui stesso è dichiarato, non era in grado di capire che cosa faceva. Però io non capisco una cosa, i gay, che cosa c'entrano i gay con la vicenda di cosa? No, questo è un caso di limite. Se uno compra Babilonia o le riviste specializzate, sa che c'è Babilonia, una parte del mondo gay. Giovanardi cita anche Babilonia. Usi e consumi di un certo tipo. Cioè, che usi e consumi di che tipo? Come io sempre detto, quelli di arrivare al teorizzare situazioni limite. Per esempio, ci sono i manuali che spiegano la coprofagia, come si può fare sesso confrontandosi con gli escrementi. Ma che dice? Basta leggere, basta andare. Ma chi è che fa sesso con gli escrementi? Giovanardi, non mi faccia incazzare alle 20.01. Io ce l'ho fotocopiato. Ma che c'entra sul sito del cassero? Sesso con gli escrementi. Ma che c'entrano? Che c'entra la coprofagia? Ma che c'entrano i gay con gli escrementi? Allora, che incredibile. Quello che viene pubblicizzato a livello di comportamenti, io naturalmente non condivido, prendo atto che ci sono. Ma quali? Esistono tutti, esistono ovunque, a prescindere dal fatto dei gay. Cioè, il sesso estremo esiste infatti, anche tra gli eterosessuali. Bravo, ed è quello che sostengo io. E pensi a Cruciani, ad esempio, che scusi. Che da mesi mi stanno facendo una testa così, che è la famiglia tradizionale, è lì che c'è la violenza, è lì che c'è l'abbruttimento. Ma chi lo dice? Sono presente, tutti, ormai il mulino bianco è diventato questo stereotipo di un mondo che invece, come il mondo eterosessuale, purtroppo ha degli aspetti. No, ma tu stai dicendo un'altra cosa. No, sto dicendo quello che ho detto, l'ho messo nell'articolo. Sto dicendo quello che ha scritto Lacan, e cioè Chi? Che se... Lacan, lo psicanalista. Lacan, non sa niente. Sono tre righe. Lacan. Ah, Lacan. Sì. Dice, desideriamo perché siamo vivi. E restiamo vivi perché desideriamo. E sempre desideriamo un godimento. Ma se il desiderio non si confronta con il limite, diventa nevrosi, psicosi, follia. Ma cosa nel c'entra? Caso di Roma, ma che io c'entra? Ho letto, nevrosi, psicosi, follia. Ma che c'entrano i gay? Cosa c'entra? Che sono stati i protagonisti di questa vicenda. Ma non è vero, ma che sono gay. Potevano essere anche etero, bi, trisessuali. Ma non è vero che non è vero che sono uno, gay. Uno era dichiaratamente. Ma chi? Non è vero. Era quello che organizzava quelle serate. Ma che vuol e dire? Il ragazzo che è nato lì. Poi c'è quello che ha scritto il Corriere organizzava Repubblica, eventi gay, questo dice Corriere Repubblica, sbagliati. Sì, è vero. È nato lì. Ma non c'entra. Pagamento chiesto di partecipare. Dunque, facciamo chiarezza, però, facciamo scusa, chiarezza. C'erano prestazioni di questo tipo. Ma non sono gay per niente, quelli là non è sicuro ma che siano so, l'ex fidanzato so, della Vento, per intenderci. Sicuramente sì. Organizza- sì, è vero, questo ha ragione. Su in parte ha ragione Giovanardi. Tipo, cioè l'ex fidanzato della Vento organizzava vuole, eventi gay. Quando, esatto, quando si vuole andare al di là di ogni limite. Vabbè, al di là di ogni limite, magari utilizzando droghe che ti fanno perdere il controllo, poi purtroppo i risultati sono quelli. No, ma ho capito, però tu sei partito... Nevrosi, psicosi, follia. Vabbè, tu sei partito però da un'altra cosa. Tu sei partito da dire che i gay c'entrano con questa vicenda. Ma che c'entrano i gay? Non c'entrano niente, non è che uno è più... Perché sembra una cosa. Chi hanno cercato loro ma e perché hanno pagato sono, ma perché sono per più... partecipare che cosa? Ma, poi, ma so, che ne so, ma lo volevano prudente, ammazzare, non gliene fregava niente. Questo signore che è nato lì, poveretto, che ci ha rimesso la vita... Perché è stato adescato da questi, e dico sempre quello che hanno scritto i giornali oggi, sì, per carità. Dato 100-150 euro per fare che cosa? Per partecipare a un incontro con loro. Ma non è vero, ma non è Sherlock Holmes, ma chi sei? L'investigatore non è vero. Adesso le indagini vedremo cosa emergerà, quell'altro organizzava, hanno cambiato vari nomi, ma sostanzialmente sono robe che durano 24 ore, 36 ore a base di droga in quel mondo lì. Ma io ti cioè, perché comunque non guardi, è che ci siano tutti, ci sono dei mondi perversi, i due protagonisti, ma perché ci sono dei mondi secondo me perversi, ma anche per... omosessuali. Ma secondo se te volete negare l'evidenza? No, ma che c'entra? C'è solo Valentino e Valentino, no, tranne nelle vostre fantasie Valentino e ma Valentino. Ma scusami Carlo, ma che c'è? Tu dici che il mondo gay è più perverso, perché questo hai detto. Ho detto che è più ma come ho detto no? Che la perversione c'è nel mondo eterosessuale. Ma no, questo l'ho detto io veramente. C'è anche nel mondo omosessuale e quando siamo di fronte a situazioni di questo tipo siamo a un paradosso, lo ripeto, di nevrosi, psicosi. Ma questo, follia, ma questo non è che sei che... psicologo adesso, cioè... Per me è così, perché se le persone non hanno un limite ma questo d'accordo, ma questo va bene degli eccessi poi alla... Sì, ma non diciamo banalità. Secondo te il ragazzo è stato ucciso da due gay strafatti, questa è la realtà, cioè che il ragazzo uno dei due. Io so sempre da quello che leggo sui giornali. Se voi mi dite che quella era una serata elegante di Arcore, ma a me non sembra una serata elegante. Sarà una via di mezzo. No, c'entra, perché poi siamo in un paese che sulle serate eleganti di Arcore ci ha costruito i processi, ma che c'entra? Dei governi, eccetera, ma non c'entra eccetera. Niente, e su quelle cose, non quella di ieri sera, su queste manifestazioni estreme che vengono realizzate e fatte dai gay, e ripetute dai gay, sì, da quel mondo lì. Ma, certo. Ma perché hai citato Babilonia e i gay? Perché cito, ma è pieno di maiali di e di porcine anche nel mondo eterosessuale. Sono d'accordo. Ma non infatti, sei d'accordo, perché secondo te i gay sono più perversi. Tu dovresti avere il coraggio di dire, tu sei, dovresti avere il coraggio di dire che ho sempre difeso i gay normali. Cioè ma che vuol dire normali? Educate, eccetera. Questo eccetera. È come, signorini, quelli, esempio, è come, che signorini, vivono fra di loro, quelli che fanno giustamente una loro vita comune. Ma perché quelli non che, quelli che vanno a comprare i bambini all'estero? Ma perché quelli che fa... una differenza? Ma perché io quelli gay normali che vivono fra di loro e quelli che vanno a comprarsi un bambino all'estero ci faccio una differenza. Ma scusa, posso scusa, ma perché i gay che fanno le ammucchiate come sono? Normali o anormali? I gay che fanno le ammucchiate? Scusa, spiegami. I gay che fanno le ammucchiate? Gli eterosessuali che fanno le ammucchiate. E che sono? Maiali? Non sono, però vedo che vanno sotto processo. Ma che non è che tutti gli indiani di gente che fa le vedo che vanno sotto processo e nel caso ci sia il sospetto che in una serata elegante ci fosse anche uno che aveva 17 anni e 11 mesi, questo determina processi su processi. Ma anche qui c'è un processo per escursioni, provoca un'attenzione delle procure e dell'opinione pubblica e dei giornali. Vabbè. Che invece ma non in c'entra niente. No, c'entra. C'entra assolutamente. Ma allora se ma non concordiamo. No, però voglio chiederti un'ultima cosa, caro, ma capo, secondo te vanno evitate, è la cocaina. Vabbè, ma quello cose, è banale dire la cocaina va evitata, d'accordo, ma però scusa, dalla cocaina che va evitata certamente. Se fosse la causa scatenante di quello che è successo a Roma, ripeto, avremmo a Milano, che è la città dove si consuma più cocaina in Italia, una strage al giorno. Dunque non c'entra niente, c'entra. Non abbiamo una strage dal punto di vista. Questi volevano ammazzare questo qua. Abbiamo una strage dal punto di vista delle persone rovinate. E si sono dei casati, clienti rovinati, delle aziende rovinate. Vabbè. Questo sì, abbiamo una strage. Va bene, ma senti, Vendola, scusami Carlo, Vendola, un'ultima cosa, dato che tu lo consideri certamente un mezzo criminale, perché è andato a fare l'utero, secondo la legge italiana è un criminale secondo la legge italiana. Bene, dunque, no, se questa roba qui la fai in Italia è un criminale, dunque va fermato, secondo me, secondo la legge italiana, vedi, è un criminale, ma non solo secondo me, secondo le donne, secondo la Finocchiaro Fidelbo, secondo quelli che credono che è un'infamia fare una cosa così. E va fermato alla frontiera, allora, cioè il bambino non va fatto entrare in Italia, secondo te? Uno deve essere coerente. Ma come? Il bambino, in qualunque situazione nasca, il bambino in Italia, e ci mancherebbe altro. Il bambino in qualunque situazione nasca, perché dopo, quando in Bosnia sono nati i bambini degli stupri, non vanno tutelati. Ma perché? Che mica è nato da uno stupro? È nato da un reato. Da quello che in Italia è considerato un reato. Ho capito, ma allora se uno pensa che quello è nato da un reato, perché non gli non mandate i carabinieri alla frontiera? Perché non si, il bambino? Perché? Perché in Italia non è reato, perché lì non è reato, quindi non si può fare. Perfetto. Allora, dunque, come tu consideri... che abbiamo fatto con l'infibulazione? Abbiamo detto che se uno fa la mutilazione genitale a una bambina, è reato se lo fa in Italia, ma ce la porta in Tunisia e fa la mutilazione genitale in Tunisia, ma non è la stessa, è reato lo stesso. Ma non è la mutilazione genitale e l'utero in affitto, non sono due cose uguali, cioè, certo, ci arrivo anch'io, ma l'indegnità dello sfruttamento, dell'acquisto di parti di corpo umano per sfruttare a livello economico, tu come lo consideri? Sì, ma ho capito. Io lo considero come Gramsci. Ho appena trovato una roba di Gramsci l'altro giorno, molto bella. Di Gramsci, addirittura. Gramsci che diceva, poiché anche allora usavano le donne per fare, dice, per le vecchie megere in carta pecorite, perché vogliono avere un figlio. Dice, adesso alle donne non solo gli portano via le trecce bionde, le ragazze, gli portano via anche il corpo, gli portano via anche i bambini. E dunque? Questi che con la merce, con i soldi, pensano di comprarsi il mondo, questi sporcaccioni, diceva. Dunque, per te Vendola è uno sporcaccione? Io ho citato quello che diceva. No, ma sei d'accordo, è uno sporcaccione Vendola? Con Gramsci, che è il livello più perverso di chi con i soldi pensa di comprarsi la dignità. Uno sporcaccione. Uno sporcaccione. Non ho detto sporcaccione. Io ho citato quello che diceva. Vabbè. Io dico comunque, che la vera notizia, lo sai qual è la vera notizia? Che Giovanardi legge Babilonia. Questa Quando ti informi sul mondo gay, ti informi. Assolutamente mi informo. Ti informi sul mondo gay. So benissimo che un mondo come quello eterosessuale, assolutamente. Ma no, non è così, non lo penso. Dove ci sono posizioni assolutamente condivisibili con cui si può ragionare. No, non parliamo di posizioni. Una forma di sessualità estrema. Si crea, se pensate cosa successe quando si diffuse l'AIDS, allora a macchia d'olio. Comunque, perché c'erano modalità di promiscuità, per cui un uomo poteva avere 10, 20, 30, 40 rapporti. Cioè sono più promiscui i gay secondo te? In quella fase c'era un Sono più promiscui o no i gay secondo te? C'è una tendenza alla promiscuità, a cambiare partner, che è più accentuata di quanto qualunque persona che conosce il mondo omosessuale sa che è così. Va bene, grazie, ciao Carlo. Ma se ciao. Voi volete fare il mulino bianco dell'omosessuale, solo una cosa, attenzione. Dimmi, che c'è, che succede? I 200.000 euro sono pericolosissimi. Perché? Perché magari uno per un milione ti ammazza pure. No, non si mette un limite. Sì, perché uno dice, guarda, se mi ammazzi Cruciani ti do un milione. Attenzione a dire, ci sono cose che comunque hanno un prezzo. No, 200.000 è il prezzo, infatti succede. Ma infatti succede. Su questo ha ragione Giovanardi, bravo. Non c'è limite, attenzione. No, ma guarda che succede. Su che questo ha ragione. Succede Giovanardi. Che per un milione, anche per meno, si assoldano dei killer per ammazzare le persone. Dire, perché uno dice, ma se Cruciani per 200.000 euro è disponibile a farci fare un certo tipo di sodomia, servizio, io pagando di più voglio avere la soluzione da ammazzare. Ma a proposito, la sodomia per te è una cosa innaturale? Sicuramente, come ho detto un milione di volte, in natura il rapporto che è quello naturale è quello lì, cioè quello che passa attraverso gli organi, che sono stati deputati, eccetera, eccetera. La sodomia è innaturale. Direi proprio di sì. È innaturale. Ma non c'è. Poi uno che gli piace, lo fa, lo svolge. Appunto, però. Però ricordatevi sempre l'episodio di Sodoma, che va letto correttamente. A Sodoma la punizione biblica non deriva dal fatto dell'omosessualità che era diffusissima, era dal fatto che i sodomiti, quando gli viene offerta le figlie vergini e gli dice l'ospite, l'angelo è sacro, quindi vi do le mie figlie, giacetevi con le mie figlie, allora? I sodomiti invece dicevano non ce ne frega assolutamente niente delle tue figlie, noi vogliamo conoscere l'angelo. Quindi non era la sodomia, era volerla imporre agli altri. Era voler imporre agli altri con la forza la sodomia. Questo era il peccato di Sodoma. Guarda che la sodomia comunque non è male come cosa. Ah, guarda, se piace a te, non disputando mai. No, ma su questo ha ragione. No, ma guarda, io sto dicendo anche attiva. No, ma guarda, ascolta, come dico, del gusto okay. Non disputando no, mai. No, ma attiva dico, cioè, può piacere. Torna a dire dei gusti che sono disputando mai. Ho capito, ma non è una cosa così strana, c'è cioè una cosa normale. Ma non è una cosa super strana, ho detto che il limite è che uno gli piace fare lo faccia, non la voglia imporre agli altri, vabbè, non venga a raccontare chiaro, agli altri che questa cosa ha una sua valenza esattamente uguale a quella su cui si è costruita la storia dell'umanità, vabbè, che era posto uomo-donna. Vabbè, d'accordo, ciao. Ok, ciao. Arrivederci. Viva i Fraci, viva i Fraci! La Zanzara. Parenzo, come ti permetti di chiamarci miserabili, noi mecenati, vassalli della notte? Sei solo un macellaio, un lurido e vile macellaio di prepuzzi d'infante. Fallo decidere a tuo figlio se deve tagliarsi o meno l'uccello. Vergognati, schifezza. Non l'ho capito questo, per questo prepuzzi d'infante, che hai cosa? Povero idiota. Si riferisce. Povero idiota anche asino, peraltro, quindi inutile perché? Rispondere. Perché asino? Beh, asino, povero idiota, che non capisce niente, quindi lasciamolo nuotare nel suo mare di merda. Dove... Macellaio di prepuasi per la storia del coso, sì, per la storia della... Ma povero idiota, dai. Povero si può fare uno speciale, però, uno speciale sulla... No, non credo che... Uno speciale fare. Sulla... su com'è che si chiama? Adesso vi sfugge. Si chiama circoncisione, che è una pratica che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vorrebbe rendere obbligatoria per tutte le popolazioni africane, perché solo che costa troppo, quindi non lo può fare, ma lo vorrebbe rendere obbligatoria. Se tale fosse, si ridurrebbero le malattie a trasmissione sessuale dell'80%. Però è buono quello che dici. Vedi che però mi dai spunti per fare veramente un grande speciale sulla circoncisione. Dobbiamo spiegare bene le cose. C'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In occasione della circoncisione del sì, vabbè, però quello non è una cosa privata, è un evento privato. Però in occasione di questa circoncisione, che comunque è un evento privato, ma tu personaggio pubblico lo fai diventare un evento pubblico, non c'è niente da fare. Non ci sono telecamere, diciamo, né foto, ecco. Beh, sarebbe buono però, sarebbe... Non ci saranno, ti posso assicurare che non ci saranno. Sarebbe buono. Questa è buona come donna. Questa ti è molto posso assicurare che non ci saranno né telecamere né foto. Nei prossimi giorni farò un grande dibattito sulla circoncisione, perché è un tema molto importante. Inviteremo anche qualche rabbino, credo. Qualche rabbino. Rabbino e sesso. Rabbino e sesso. Sì, molto anche molto su questo buono. Ci sei molto da dire, figuriamoci. C'è gente molto preparata, peraltro. Ottimo. Allora, io penso che Adinolfi sia veramente impazzito, però, ragazzi. Perché io, da un certo punto di vista, voglio anche bene a Marione, no? Cioè, le battaglie. Tu vuoi bene a gente strana, ma no, non importa, la guerra, il modo in cui porta avanti le proprie idee. Qualcuno dice che è un paraculo. Secondo me, no, crede in quello che dice. Però, come si fa sull'omicidio di Roma a dire. Nel 2010. Che è successo? Che è partito qua? Che è partito? Allora, era a favore della famiglia naturale, cioè quello che è morto. Semplicemente perché ha messo un post su Facebook in cui dice. No, Adamo ed Eva, questa è la vera famiglia, e non Adamo e Claudio. Vabbè, è morto però, e poi non è che come fai a dire che era a favore della famiglia naturale? Cioè, sembrerebbe, comunque. Ed è stato ucciso da due gay strafatti. Mamma mia. Perché proprio lui, tra tutti, tra tanti, per cercare di capire se tutta l'immonda violenza che viene scaricata addosso a noi ogni giorno perché proviamo magari semplicemente a dire che siamo contrari al matrimonio omosessuale e crediamo in Dio e nella famiglia naturale non stia generando un delirio persecutorio di cui questo atto è il culmine che sembrava inimmaginabile. Cioè, secondo la teoria del mio amico Adinolf, L'amico, cioè l'amico purtroppo, il ragazzo, come si chiama, Luca Varani, è stato ucciso in quanto a favore della famiglia naturale. Sì, ma ti rendi conto? Ma veramente è incredibile, ragazzi, è incredibile. Ma ti rendi conto della follia? Ma che gli dici? Alle volte, io anch'io gli voglio vedere, ma che gli dice il cervello alle volte, di nuovo? Ma cosa gli dice? Uno può avere tutte le idee che vuole, ma come fai a dire, dire che è stato ucciso in quanto a favore della famiglia naturale? È stato ucciso perché quei due sono matti, pieni di cocaina, impazziti completamente, impazziti e poi anche pieni di cocaina, se no sembra che mi contraddico, impazziti e poi anche pieni di cocaina. Francesco, provincia di Ancona, vai Francesco. Sì, ciao Giuseppe, ciao Davide. Una prima cosa, secondo me per il senatore Giovanardi Vendola dovrebbe essere un gay imperfetto, no? Nel resoconto che ha dato, nella distinzione tra gay perfetti e gay imperfetti, anche se non l'ha specificato, dovrebbe essere un gay imperfetto. Comunque, detto ciò, volevo intervenire sull'argomento di Foffo. A mio parere, scusate, siete stati, rispetto ad altre volte, un po' morbidi, sia su... Ma con chi? Con l'avvocato? Sia con l'avvocato che con anche il padre, perché adesso ve la faccio io. Il padre non è stato da noi, era porta a porta ieri sera, amico mio. Esattamente, però non l'avete commentato come in altre occasioni. Come non ho commentato? Ho detto semplicemente che il padre che sostiene, spero che la colpa sia stata la cocaina, e non perché altrimenti mio figlio è un mostro, evidentemente non conosce bene il figlio. Ma che gli devo dire al padre? Scusa, non ho capito, lo devo azzannare il padre di uno che ha commesso un omicidio e che starà in galera per tanti anni? Che cosa devo fare? Secondo me sei stato... siete stati, anzi tutti e due, un po' morbidi, un ma po' con molli. Chi? Ma con chi? Spiegami. Con le espressioni, con le dichiarazioni che sono state rese dal padre, perché se mi permetti, adesso lo faccio io. No, ma dimmi, la domanda. Dimmi invece tu come saresti stato, perché magari siamo noi che non abbiamo capito bene, cioè non ho capito. No, io... Si può criticare una cosa, si può criticare una cosa, adesso me la fai venire in mente, il fatto che, come dire, a cadavere caldo, con i figli in galera, esatto. Il padre sia andato a porta a porta. Esatto, io infatti questa è la mia considerazione, la mia... Ho capito, ma che devo dire all'inizio della trasmissione? Questa testa di cazzo, questo stronzo infame del padre è andato a porta a porta. Ti posso dire che, non lo so, io, a me non mi verrebbe in mente, però non lo so in quei momenti, è andato a porta a porta. È stato bravo Vespa a invitare il padre, a invitare i protagonisti come deve fare. Sì, è stato un pazzo quello ad andarci, per la verità. Chi? Il padre? Ma il padre, secondo me, è una cosa abbastanza incredibile. Poi, per carità, fa benissimo. Perché andate a giudicare? Anch'io, ovviamente. Tu dici, sentire, vedere il padre in giacca e cravatta. Dal punto di vista giornalistico, è ovvio che l'avrei invitato anch'io, ma subito, immediatamente. Allora? Però non capisco, da persona che prova a ragionare, un padre che ha appena avuto il figlio reo confesso, arrestato con un delitto, protagonista di un delitto così efferrato, va in televisione a farsi scarnificare sulla vicenda che riguarda il figlio, dimostra, come dire, un animo incredibile, una forza, una follia tale. Ma come si fa? Ma tu ci andai? Io non lo so, ma perché state a giudicare un padre che va in televisione? Perché mi sembra incredibile che uno ha il figlio reo confesso, arrestato per un delitto come quello e va sotto porta i riflettori a porta a porta. Ma può essere porta a porta, fuori onda, quello che ti pare, per carità. Ripeto, giornalisticamente l'avrei invitato immediatamente. Ma è un modo invece di andare dallo psicologo, ce l'aveva Vespa. Vicino, che era la Slepo, lo psicologo, peraltro. Però non il suo psicologo. Francesco, allora? È una follia. Questa qui, tu sei un giornalista competente come parente. Sì, ma l'avvocato, che gli dobbiamo fare? Quello è l'avvocato. Dobbiamo tirare fuori notizie dagli avvocati, non che li dobbiamo azzannare gli avvocati. Però, che dobbiamo fare? Le notizie, sì, perché hai fatto bene, però la domanda è questa, guarda, è molto semplice. Secondo te, da giornalista competente, perché il padre è andato a porta nell'immediatezza del fatto? Ma scusami, evidentemente il padre, Vespa l'ha chiamato, il padre si sentiva in grado di andare lì per una forma, non lo so, per sfogarsi, per salvare il salvabile, consigliato dall'avvocato, andiamo a porta, cerchiamo di, cioè per mania di protagonismo, non lo so, cioè per esibizionismo, può darsi tutto. Ma scusami, nell'immediatezza di un fatto dove tu apprendi che tuo figlio ha commesso un reato, dove la prima cosa che fai, per carità, anche giustamente, chiami il tuo legale per la strategia di far costituire tuo figlio e poi vai a porta a raccontare, a spiegare quello che è accaduto. Ragazzi, se mi permetti, scusami. No, Francesco, va bene, ho capito la tua critica. Mi sembra una cosa che in Italia può accadere di tutto, ma ho capito, Francesco, ho capito, rasenta la follia. Benissimo, io ti dico una cosa, la realtà è questa, che quando ti chiama il signor Vespa, il quale personalmente avrà chiamato, secondo me, l'avvocato, addirittura anche il padre, gli italiani non resistono. Cioè non si resiste anche di fronte alle tragedie ad andare in un salotto, ma questa è la grande forza di un programma, se vogliamo, ad andare a raccontare quasi a tirare fuori quello che uno ha dentro. È una forma quasi di, invece di restare a casa lì assediati dai giornalisti, cioè tu vai a porta, dici la tua e sei più tranquillo. Sì, sarà mica normale, però. Ma io non lo so se non, ma perché dite normale? Per me non è normale, poi per carità sarà normalissimo, per me non è Mauro normale da Milano, vai, Mauro. Mauro da Milano. Mauro. Non è da Manto, quando sento Mauro, ti si comincia ma ad no, agitarti. Ma agitarti, Milano, vai Mauro. Allora, no, anch'io voglio dire la mia. Mi ha appena questo l'abbiamo capito, ragazzi. Solamente che io non vedo questa fantastica spettacolarità di vedere un genitore di un figlio assassino, reo confesso, come se fosse una star. Io non vorrei che alla fine venga fuori un fantastico libro, mio figlio l'assassino. No, vabbè, poi... dai, non diciamo cazzate. Questo no, è un signore. Io non lo so se. Però io non so. Cioè, tu dici, te la prendi col padre? Te la prendi col padre? Una cosa del genere. Te la prendi col padre, sì. Perché che per esibizionismo è andato alla Vespa? No, non me la prendo col padre. Io, se fossi stato il padre, ma neanche morto mi sarei presentato. Vergogna totale. Ma pensiamo un po' invece alla vittima, perché la vittima qui in Italia, la vittima ci usa fare la famiglia che protegge l'assassino, la famiglia che protegge chi delinquere, ma non si guarda mai la vittima. Ma non la è vero, ma non è vero. Ma la vittima in questo caso... Gli si dà di questo, perché è andato al festino, e se non andava al festino succedeva niente, però non deve essere neanche una scusa la droga. Sì, no, ma perché Mauro, guarda, non mi sembra che in questo caso si stia trasformando la vittima in un colpevole. Non mi sembra questo il caso. Il fatto che sia andato lì, la ragazza avrà avuto le sue perversioni. La ragazza mi sembra di aver letto che è più sconvolta dei genitori, ovviamente, degli assassini. Per cui non mi sembra che si sta in qualche modo colpevolizzando la vittima perché è andata a quel festino lì. Ciao Mauro, ciao, ciao. Che mondo sarebbe senza la zanzara? State ascoltando un programma offerto da Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Rofiera Milano 15-18 marzo. La zanzara. Crociani, tu vuoi le prove che la gente abbia veramente 200.000 euro? Io voglio le prove della tua verginità anale. Crociani, sto giro, il buco del culo prende una brutta piega. Comunicazione per il dottor Parenzo. Sono 40 anni che vado frequentemente e felicemente a puttane. Godo come un maiale e non mi sento affatto miserabile. Miserabile sarà lei. Allora ragazzi, vi pare normale che in Germania il governo tedesco, magari Parenzo lo sì, trova assolutamente... immaginavo. Immaginavo, il governo tedesco... Il famoso opuscoletto, vuoi parlare di questo, tu, il famoso opuscoletto sì. Che viene distribuito ai no, migranti... No, è una pagina web, sì, non ti preoccupare, non c'è web, nessuno opuscolo. Online, quello che vuoi, so, sì, un opuscolo, vengono si spiegate opuscolo. Ai nuovi arrivati sì, i comportamenti sì. A cui si devono attenere se vogliono avere rapporti sessuali con sì. Le donne tedesche. Non mi pare una cosa con tanto stupida. Di immagini a corredare le spiegazioni, cioè sì. Con l'uomo nero, dov'è, la donna bianca... È una cosa scandalosa di questa bella iniziativa... Che va verso l'integrazione, cosa vuol dire? Qual è? Il manuale che spiega ai migranti come fare sesso con le donne europee, come se servisse a qualcosa che quelli leggono, cioè leggono e imparano come fare sesso con le donne europee. Cioè, a parte che è quasi una certificazione una certificazione di una diversità. Dunque tu dovresti condannare questa cosa. No, tu dal tuo punto di vista dovresti dire che questi qua sono dei razzisti perché pensano, no, distribuendo questo questo opuscolo, no, oppure equivale a quando il Ministero degli Esteri, altrimenti detta la Farnesina, ti scrive sul sito le usanze, gli usi e i costumi dei paesi dove vai. Ad esempio, se vai in India, devi sapere che in determinati momenti ci sono delle feste per loro sacre. Ad esempio, sarà normale trovare delle vacche che camminano per le strade, quindi danno indicazioni su come comportarti. Non è certo razzismo questo. È un modo per spiegarti come ci si comporta nei posti diversi da noi dove si va. Si afferma in modo chiaro che arrivano qui sostanzialmente delle bestie, perché siccome si danno delle indicazioni molto normali, l'uso del preservativo, eccetera, cioè che cos'è una molestia, arrivano qua persone che non hanno la minima idea di che cosa sia la civiltà. Questo vuole dire il governo tedesco. Lo dice il governo tedesco, non sono io. Non è così. Intanto, amico mio, ho trovato un alleato, un alleato. L'alleato si chiama, fermi tutti, Teo Teocoli. Senti che cosa racconta. Sei sporco? Quasi sì. Che significa? Quasi sì, significa che io non amo fare il bagno né la doccia e quindi mi lavo a pezzi, ma poi ogni tanto la doccia la faccio. Ogni tanto la doccia la faccio. Hai capito? Mi lavo a pezzi, è esattamente quello che faccio io. Beh, ma non c'è da vantarsi comunque. Assolutamente sì. Il fatto che anche Teocoli sia uno sporcaccione, non voglio dire no. Senti quest'altra di Brunetta invece. Renzi scappa dal Parlamento per trasmissione di intrattenimento. Cioè Brunetta, Forza Italia, Berlusconi, utilizzazione della televisione anche negli spazi che non sono di informazione, se la prende con Renzi perché va dalla D'Urso. Ma tu ti rendi conto a che cosa siamo arrivati? A quale follia siamo arrivati di Brunetta? Cioè Brunetta attacca Renzi, ma doveva attaccare Berlusconi 10 anni fa, 15 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, e invece stava muto. Adesso invece con Renzi si accorge abbastanza. Che i politici vanno anche nelle trasmissioni di intrattenimento, in assurdo, particolare Renzi. Assurdo. Scappa dal Parlamento, lui e Gentiloni, e preferiscono le trasmissioni di intrattenimento per avere modo di raccontare la loro verità. Hai visto come ha fatto all'inizio? Renzi Va detto, non va bene, dalla D'Urso. Allora, il caso PD primaria a Napoli, di cui non me ne fotte nulla assolutamente. E tutto il mondo politico è interessato a questa cosa, a me non questo me ne frega niente. No, questo si calcola 100 voti, 200 voti, 40 voti, ho dato un euro. Alcuni consiglieri renziani, alcuni consiglieri comunali, altri del PD, sono stati pizzicati da alcune telecamere mentre davano un euro a quelli che andavano a votare. A parte il fatto che secondo me se la vuoi fare sporca non è che vai davanti al seggio, ma questo potrebbe anche non essere così. Sentiamo uno di questi che si chiama Antonio Borriello, che dice che ha prestato un euro a uno che non conosceva per votare. Ora io voglio dire una cosa, la gente che va a votare lì lo sa che bisogna pagare un euro. Ma quello perché a Napoli succede sempre questo? Sempre a Napoli. Perché tutta la... Non è che ad esempio in Veneto... Una volta i cinesi, no? Una volta i cinesi... La... Che a Milano i cinesi, è vero? No, a Milano ai cinesi, a Napoli Milano anche. Per sala anche a Napoli l'altra volta, alle primarie del PD che furono annullate, ti ricordi? Comunque i cinesi, sai, i cinesi va bene che votino, meno male. Non mi ricordo chi era a Napoli 5 anni fa, non so se erano i cinesi pure a Napoli o gli extracomunitari o non so chi. Comunque, Antonio Borriello, uno di questi implicati in questa vicenda del PD a Napoli. Una persona, massimo un'altra, ma non ricordo esattamente, uno è venuto nel seggio, non si trovava l'euro, questa persona che neanche conosco, per non apparire scortese, io davanti a tutti, proprio per far comprendere l'eccezionalità di un atto così, gli ho detto vabbè non c'è problema, votate, e io gli ho dato l'euro per poter, non vi preoccupate, capiterà. Ragazzi, però non è che siamo nati ieri noi, cioè non siamo nati ieri. Un atto di ingenuità. In un'altra intervista a suo Borriello, che cos'è che ha detto? Ha detto l'ho fatto per non far apparire il partito scortese, una cosa di questo tipo. Cioè, una cosa pazzesca, dai, su, ma non si va davanti ai seggi a distribuire un euro alle persone che non... Perché è chiaro che poi ti si inchiappettano, no? Cioè, tanto per restare in tema di inchiappettamento. Ecco, dai, quanto ti piace a te questo? No, ma non l'ho mai fatto, dunque non so se mi piace. Un atto di ingenuità, non so se questa è ingenuità di una persona che stava lì, nessuno di noi lo conosce, non aveva con sé questa moneta, io ingenuamente a questo punto devo dire proprio ingenuamente ho preso l'euro. Ho da farti ascoltare un'altra cosa. Librandi, che viene utilizzato sempre come ariete nelle trasmissioni, bellissimo, quinta colonna, no? Il protagonista di quinta colonna, il cattivo di quinta colonna, messo lì al pubblico ludibrio, lo adoro solo per questo. Librandi, scelta civica, deputato, se la prende con un pensionato. Ora, questa storia dei pensionati che vanno alle Canarie, perché lì si spende di meno e i soldi non bastano in Italia, è una storia eccezionale. Il grande polettone, l'hai visto ieri il polettone? Ma dobbiamo pizzicare anche noi dei pensionati che sono alle Canarie. Voglio fare dei collegamenti con i pensionati alle Canarie. Sì, ma che fanno in fondo? Vanno... giustamente stupendo. Sono andati lì perché la pensione loro lì vale di più. Senti Librandi come se la prende con questi, eh? Sì, buonasera, sono Giuseppe, 58 anni, grazie a Pierangelo che vive alle Canarie. Vi posso assicurare che qua si sta da Dio. Certo, sei in vacanza, è logico. Non sono in vacanza, io sono un pensionato già da 3 mesi residente qua e sto benissimo. Certo. Venite e provate. Quando in estate ci sono 12 milioni di persone su 70.000 metri quadri stai proprio bene, no? Io non capisco perché Librandi se la prende. Che gliene frega se uno sta. No, perché quello dalle Canarie voleva fare la lezione all'Italia, dove è una merda, dove si sta male. Quello giustamente si incazza e dice: stai zitto, stai alle Canarie, stai bene, ma non ci rompere i coglioni. Da un certo punto di vista, il Librandone non ha tutti i torti, eh. Cioè, questo qua ci viene a fare la lezione perché è andato alle Canarie, ma chi se ne frega? Va alle Canarie e non rompere le balle, no? Dove lo trovi il lavoro in Italia? Io ho 53 anni. Ma dove lo trovi lì? Se non venivo qui, lavoro. Grazie a Pierangelo, e a vivere alle Canarie. Certo, dove vivere alle Canarie? Trova lavoro. Mi deve dire non dove trovavo lavoro in Italia. Mi deve spiegare come funziona. Non sa neanche che cos'è. No? Mia figlia che ha 11 anni. Non ci sarei assolutamente non riuscito. Non c'è il Jobs Act alle Canarie. C'entra il Jobs Act, tra l'altro Librandi poi sbrocca completamente. Però devo dire la verità, questi pensionati che sono alle Canarie non ci rompessero le balle, sono andati alle Canarie a viversi la pensione. Ma non hanno dato fastidio a nessuno, capito, perché erano sobillati dal signor Poletti. Ma perché devono darci Canarie lezione su come campare o no? Che in Italia è tutto fastidio, ma alle Canarie non rompere le balle, no? Ma vanno lì e dicono che lì la loro pensione vale molto di più che in Italia, mi sembra legittimo. Ragazzi, scusa, c'è anche la questione della reggia di Caserta, quelli che affittano le case che dorme dentro, a 2 euro. Senti questi qua. Tutto riformato. Chiudiamo qui, dai. No, chiudiamo il paese. Chiudiamo il paese. No, intanto cominciamo a chiudere la trasmissione. No, manca così ancora andiamo a casa, aspetta. Mangiamo lo spaghettino, senti, aglio e peperoncino. Senti. Cosa volete da noi? Noi abitiamo qua. Quando ci vogliono cacciare fuori, ci cacciano fuori. Noi non siamo abusivi. Noi paghiamo il fitto per quando ci hanno detto. Siete no abusivi, di più. No abusivi, di più. Senti ancora questa. Ti pago 86 euro al mese. Ogni 2 mesi 168 ogni 2 mesi. Guardi bene però, gennaio e febbraio, quindi non è 168 un mese. Io pago ogni 2 mesi, sai perché? Perché il bonifico è 3,50 euro, sta scritto qua. Perché non mi va di pagare 3,50 euro un mese? 3,50 euro al mese. No, mamma, va bene, capito? Cioè il bonifico sui 2 mesi perché lei non vuole pagare 3,50 euro al mese e ne paga 86 per vivere dentro la reggia di Caserta. Io, per carità, la signora vedova di un dipendente, credo, va tutto bene, però amica mia, dillo a voce, io sono una privilegiata, sono una signora vecchia. Beh, privilegiata, il minimo da dire questo, il minimo. Privilegiata, sto qui e non ci dovrei stare. Stai zitta almeno, non dire nulla, chiudi la porta in faccia. Aspetta, i termosifoni. Ehi, il termosifono le ho messe io a spese mie. Se non di qua, tolgo tutto. E qua la rompo un'altra volta, come sta questo? Come stanno queste qua? Io la rompo questa, perché non la lascio così. Cioè, se mi cacciano via, perché adesso fortunatamente arriva dopo tanti anni la mannaia, io posso capire che dopo tanti anni, siccome i politici non hanno fatto praticamente un cazzo per risolvere la situazione, posso capire che questi qua ormai pensano che le cose sono acquisite, no? Usucapite praticamente. Ma no, ma potranno anche avere ragione da un certo punto di vista. Questa vecchia arpia della reggia di Caserta ha anche un po' ragione. Cioè anche, perché dice, dopo tanti anni questi qua, i politici, non hanno fatto una mazza, mi hanno mandato gli sfratti, non ho fatto nulla, pago 86 euro al mese, ho fatto dei lavori perché poi la detta avrà fatto delle cose, adesso mi venite a rompere i coglioni. Cioè, da un certo punto di vista gli posso anche dare ragione, cioè non posso dargli torto, è così. Marco da Latina, vai Marco. Pronto? Oh, andiamo, dai. Signor Cruciani, io seguo da qualche sera la sua vicenda dell'offerta pubblica che ha fatto per... Ma io non ho fatto nessuna offerta pubblica, precisiamo, precisiamo, siamo... È molto chiara la cosa, c'è una... per rispettare un minimo le regole economiche. Di OPA, sì. Le consigliamo l'OPA sul cosa, mio culo, sì. I prezzi, Cruciani, se no non si incula nessuno, questa era un po' la... Abbassa il prezzo, se no non mi si incula nessuno. Ma io non devo abbassare nessun prezzo, io ho messo un'asticella, un limite, 200.000, punto. Se c'è però qualcuno... sai che cosa mi ha fatto riflettere questa cosa? Sì. Parlo serio adesso. Sul fatto che in effetti al mondo tutto ha un prezzo, ma parlo serio. Ma è quello che volevo dire io, cioè... Parlo serio, guarda, è una cosa vera questa. Ma il tuo è bassino, cioè, ma non è bassino per niente. Ma ragazzi, ma 200.000 per metterlo, per essere inchiappettato una volta, insomma, per prendere una volta in culo, ma non è, non mi sembra. Appunto, appunto, perché non li spenderesti mai. Però uno scemo ci penso, capisci? Questa è una cosa. E là ma non ci sarà nessuno. Io dovrei trovare un ricco omosessuale. Un ricco omosessuale a buon mercato. No, esatto. Allora, dovrei trovare un ricco omosessuale, ma molto, molto ricco. Che viene a. Se vuole fare pubblicità perché sei un groppato. Ma molto, molto. Sì, ma non è che si fa tutta sta pubblicità. Adesso non esageriamo. Ma cosa è una porcheria? Non ho capito. Tutto è una porcheria. Ma cos'è una porcheria? Ma tutto mettere all'asta. Comunque, signor Cruciani, è una porcheria. Ma non c'entra niente. È una provocazione. Parenzo, lo sai benissimo che cos'è questa cosa. Cioè, da cosa nasce? Sì, ma vedrai che adesso dovrai pagare questo prezzo perché la gente si sta organizzando in ma rete, la gente eccetera, non si organizza per dai. Ma magari fosse pare magari ma fosse. Certo ma perché tu lo desideri ma Marta non fosse, vuoi vedere magari, questa roba qua ragione, ma magari fosse guarda, così cambi idea con questi giochini. Signor Cruciani, mi permetti una cosa e poi te lascio perché sì dimmi dimmi qualcuno cose. Mi vuole cacciare dall'ordine dei giornalisti, capito? Ho letto ma da qualche questo parte. Sì, ma questo mi pare una cosa talmente cioè capisci la follia. Questo io ti caccerei ma no ma da nulla ma appunto vuole cacciare dai giornalisti perché non hanno capito bene questa roba. Adesso qui andresti cacciato dal consesso umano, ma non dalle strozzate dai. Cioè dal consesso umano andresti messo ah proprio... io vado cacciato dal consesso umano quando tu mi fai cagare addosso a tuo figlio, cioè io vado cacciato quando tu passi le giornate, ma io cambio dei pannolini, dai, su. Ma quello è naturale quello che faccio io. Marco, che vuoi ancora, dimmi. Volevo dire l'ultima cosa. Io ti ho parla a voce alta però sennò non si sente, dai. Mi senti? Sì, ti sento, dai. Io ti ho visto una volta fisicamente a Ponza, mi piacciono le donne per carità, però cerco di guardare il resto del mondo e a me mi sembri più datore che prenditore, quindi sta cosa alla fine è difficile che si faccia al di là del prezzo. No Marco, adesso tu mi hai visto come datore più che prenditore, vabbè d'accordo. Sì, c'hai una faccia da paracula, che Dio te benedica, fa invidia. Vabbè Marco, comunque ti assicuro che non è questione di donatore, datore, prenditore, eccetera, eccetera. No, l'unica cosa seria di tutto questo, secondo me, è che hai messo il dito in un punto preciso. Tutto ha un prezzo, punto. Bravo. Il resto dei monati, Marco ha capito più degli altri il senso di quello che no, volevo ma è fare. Chiarissimo, non c'è Piero da Roma, Piero da Roma. Vai Piero. Al massimo Cruciani ha fatto un IPO, non un OPA. Parentico. Ah bravo, è vero, sì, perché l'OPA... Sì, sì, no, chiaro, è vero, ha ragione, bravo, giusto. Vergognati un pochino. E no, poi ragione, io anche volevo usare una trasmissione di intrattenimento per raccontare la mia storia, perché sono molto contrito e volevo... Ecco, la racconti durante la pubblicità, che è molto no, interessante. È la sigla finale, però abbiamo ancora del tempo, Piero, dimmi. Sì, praticamente la disoccupazione ha indotto la mia ragazza a produrre cosmetici per vegani. Cioè, non ho capito, la disoccupazione ha portato la tua è ragazza è stata, però. A trovare un business nuovo, cosmetici per vegani. E la cosa ti ha sconvolto? Sono un po' così, sconvolto, sì. Ma perché cerco sei sconvolto? Cerco di farmi una ragione. È intelligente, perché, brava. Perché non sopporti i vegani, perché cosa? Esattamente, vegani, vegetariani. E che te ne frega, te basta che ho capito, compri, ma no? Quelli spendono, al contrario, dovresti provare soddisfazione nell'inchiappettarli in questo caso. Cioè, dovresti trovare... torna sempre. Guarda no, che dovresti trovare, ma inchiappettarli è un termine generico, dovresti trovare soddisfazione nel fotterli. Cioè, siete così stupidi che comprate cosmetici vegani. Bene, io anti-vegano sono quello che ve li vende. Anzi, non sono quello che ve li vende, ma sono il ragazzo di quella che ve li vende. Capito? E dovresti... La mia serenità familiare è stata compromessa... in maniera totale però perché? Beh, perché ci sono delle ricerche in corso che non ti dico è un parlare di veganesimo tu dici perché poi la tua ragazza è impazzita ormai non è che mi... lei è vegana no. Temo che lo diventerà. Lo no, potrebbe diventare. Questo. No, però io su questo, per esempio, non sono così nazista. Mentre i vegani sono nazisti, nel senso che possono stare solo insieme ai vegani, io al contrario penso che si possa le due cose, le due razze si possano mixare. Cioè, e penso anzi che sia un bene.